sembra quasi ieri, con Jackson Brown allo scrigno dei ricordi, late for the sky, notti sul lago, fumo Glen Grant, salo d'inverno, Crosby, Stills, Nash, Young. Corro le colline, fuma il mio caffè, parla più piano, guarda con me. E il lago sembra un fiume, Bob Dylan on the tracks. Prima che sia già domani, Joy will find a way, nella pioggia e nel tempo, cogliamo tra di noi. Anime nell'ozio, sogni in autostop, ruote di vinile, flipper non stop. Corro le colline, fuma il tuo caffè, parla ancora più piano e bevilo con me. E il lago ora è un fiume, con the needle and damage gone. Oggi sembra quasi ieri, con Jackson Brown, scrigno dei ricordi.